ti porterò sul lago. Vedrai, sarà più dolce dirci ti amo. Faremo un giro in barca, possiamo anche pescare e fingere di essere sul mare. Sapessi, amore mio, come mi piace partire quando Milano dorme ancora, vederla sonnecchiare e accorgermi che è bella prima che cominci a correre, ad urlare. E che domenica bestiale, baby.